essere un partito d'opinione, per quanto che è molto vicino all'opinione della gente, cercare di consolidarlo. Ora, il problema, la domanda è questa: funzionano queste cose oppure no? Nel senso che tempo fa è stato lanciato il sindacato dei lavoratori, dopodiché la cosa è sparita, mi sembrava di capire, a parte che per i tassisti, dove invece non mi è ben chiaro perché, ma hanno una grande capacità di organizzazione, anche a Bologna, sono riuscito a spaccare il sindacato dei tassisti anche di sinistra, quindi a coinvolgere in maniera consistente, però per il resto vorrei capire se c'è una capacità di organizzazione. Anche fra nel padronato, qualche mese fa c'è stata una discussione, si è capito indirettamente, molto pesante, perché sono stati a un certo punto intervenuto anche lo stesso Agnelli, per dire, anche altri personaggi di grosso rilievo, per dire che non bisognava seguire, sarebbe sbagliato seguire quella strada, quindi si poteva dedurre che c'era una discussione. Ecco, il problema che mi pongo è questo. Questa cosa, questo sentimento sicuramente molto diffuso, anche in aree padronali, si traduce poi in organizzazione oppure no? Mi pare di aver letto da qualche parte che c'è stata anche una parte dell'associazione commercianti, se non sbaglio, democristiana, non ricordo bene, che è passata con la Lega. Ecco, vorrei capire meglio in che modo si sviluppa e quanto è consistente, sia fra i lavoratori che fra le altre categorie. Perché questo mi sembra un segnale decisivo se c'è una tendenza al radicamento sociale oppure se rimane sul piano del legame, chiamiamolo d'opinione, anche se non è esatto questo termine. Secondo problema, la Lega ha avuto la capacità di andare incontro al senso comune senza avere nessuno spazio nei mass media, anzi essendo combattuta in maniera molto pesante dai mass media. Anche nella stessa ultima campagna elettorale è stato, secondo la graduatoria dei tempi di trasmissione, per quanto riguarda il RT Rai, se sono veri i dati pubblicati, è stato credo l'ultimo come numero di secondi, il passaggio nei telegiornali. Comunque in generale negli anni passati non ha avuto, cioè è stato un lavoro fatto, diciamo, porta a porta di propaganda. Ecco, io vorrei capire. Gli strumenti usati sono stati quelli tradizionali, oppure sono stati, cioè qual è stata la capacità di creare questo tipo di organizzazione? Perché poi mi sembra di capire che in termini di capacità di mobilitazione effettiva, organizzare cortei, organizzare manifestazioni, cioè cortei, organizzare manifestazioni, organizzare picchetti, non mi pare, o forse mi sbaglio, quelle che per la sinistra sono sempre state le forme tradizionali di mobilitazione, non mi pare che ci sia un'attivizzazione diretta consistente in proporzione a quello che è il consenso della Lega. Però vorrei capire meglio questa questione. Allora, siccome il legame comunque si è costruito in termini di rapporto di massa, rapporto di opinione, rapporto, in che modo questa cosa si è costruita? Nonostante, questo sicuramente, per esempio questo ha a che fare col discorso che veniva fatto sulla sinistra, in un periodo in cui invece tutto veniva basato sull'immagine, se non si passava attraverso la televisione non eri nessuno. Mi pare che la Lega ha dimostrato l'esatto contrario nella sua crescita. Terza questione, la questione delle contraddizioni interne. L'espulsione di Castellazzi mi pare segnale significativo di una discussione che evidentemente c'è all'interno. Al di là del fatto che Castellazzi non poteva che finire come è finito, cioè non avendo nessuna capacità di spaccare e di far perdere consensi alla Lega stessa, perché il discorso non è in quei termini. Anzi, in quell'occasione la Lega ha fatto bella figura, no? Perché ha dimostrato di essere uno in grado di cacciar via, di allontanare anche personaggi di primo piano, che si dimostrano in qualche modo senza preoccuparsi troppo delle conseguenze sul piano dell'immagine, e non tutti sarebbero capaci di fare una cosa di questo genere. Lo stesso cosa ha fatto a Bologna 2 anni fa con Pirazzini, alla prima occasione solamente perché ha fatto un'intervista in cui si diceva io sarò il prossimo deputato della Lega. La settimana dopo si è ritrovato espulso. Ora i motivi reali sono di scontro interno, per cui faceva ombra al segretario e quindi si approfittava di questo, ma in termini di come appare all'esterno la Lega ha fatto sicuramente una cosa che pochi partiti sarebbero capaci di fare in questi termini. Però, ecco, a parte questo aspetto, il punto a capire meglio è quali sono le contraddizioni interne. Ora, questo c'entra con un'altra cosa, cioè quella della composizione sociale. Guardando le liste della Lega ai tempi delle elezioni amministrative, queste liste erano piene di lavoratori e di giovani, operai, eccetera, eccetera. Guardando gli eletti in particolare, ma anche le liste delle elezioni politiche, la composizione sociale è radicalmente cambiata. E mi sembra che per quanto riguarda gli eletti ci sia una grande maggioranza di liberi professionisti, cose di questo genere. Ora, il punto è intanto vorrei capire meglio anche questo aspetto, no? Cioè, questo ha a che fare con, questo non c'entra col fatto che poi sono moltissimi lavoratori, gli operai che hanno votato Lega, questo è una cosa assolutamente nota, chiunque lavori in fabbrica, in un ufficio, eccetera, come prima delle elezioni c'era questa cosa molto diffusa, era molto facile prevedere il risultato della Lega anche da questo punto di vista, anche nelle regioni rosse, con fenomeni che non credo debbano stupire nessuno, il fatto che c'era moltissima gente, centinaia di persone che dicevano ma non so se voto Lega o voto Rifondazione Comunista, per esempio. Perché? Perché le motivazioni sono tali per cui appunto le incertezze erano anche a questo livello. In che modo esprimo il mio voto di protesta, insomma, quel fatto che non ne posso più. Ora però io vorrei capire meglio un'altra questione anche, oltre a parte la composizione sociale, la base sociale, eccetera. Se effettivamente sta cambiando, come mi pare abbastanza evidente, il segnale delle liste mi pare che vada in questo senso. Cioè le contraddizioni che possono. Ecco. Castellazzi, appunto, è il segnale di una contraddizione politica, di una maggiore disponibilità a una contrattazione con il potere oppure no? Ma non nel senso puramente consociativo del termine, cioè io sono d'accordo sul fatto che la Lega non è un fenomeno transitorio, potrebbe diventarlo sul piano politico perché magari dopo averle azzeccate quasi tutte Bossi comincia a sbagliarle tutte, ma, no, ma siccome è un fenomeno sociale, nel senso che esprime un sentimento consistente di massa che cambia radicalmente la situazione, va avanti lo stesso, può trovare altre forme di rappresentanza, non è questo il punto. Il punto è che, come dimostra quello che dicevi tu, Moglioli, sul programma, che è un programma di tipo liberistico spinto e di tipo nettamente padronale, tutta una serie di questioni, mi sembra che la Lega abbia capito che in Italia non si governa senza la Confindustria, senza l'appoggio a Confindustria. Chiunque, dal fascismo ai liberali, alla Democrazia Cristiana. Allora, se il ragionamento, cioè la contraddizione allora qual è? Che è una contraddizione anche presente nel padronato, cioè il padronato c'ha il problema di un ricambio rispetto a una classe politica che crea dei problemi, non perché ha deciso di cambiarla, ma perché ha il problema consenso. Di creare consenso, ha accettato l'alleanza con la Democrazia Cristiana perché la Democrazia Cristiana gli garantiva un consenso, un sistema sociale, economico, eccetera, pur con contraddizioni molto pesanti, però comunque decisamente inferiore rispetto ad altre cose. Allora, io ne vorrei capire meglio, anche questa è una domanda. L'ipotesi è quella di governare da soli. C'è una contraddizione fra chi pensa, mi chiedo, di governare da solo e quindi essere in grado di rappresentare una società strutturata in maniera radicalmente diversa, separata, dove non si vota, eccetera, rappresentare da solo, la possibilità di governare da solo e quindi essere in grado di avere questo tipo di alleanza, di rappresentanza politica, oppure o c'è anche in maniera consistente chi pensa che per riuscire ad andare al governo, nel senso di avere il consenso della Confindustria, è necessario trovare forme di alleanza con altre forze politiche e quindi di essere più interno alle forme istituzionali, pure cambiate in maniera assolutamente radicale. Questo non c'entra col fatto che poi qualcuno può vendersi per il sottogoverno, è un'altra cosa, non è un problema di sottogoverno, anche se è un problema che sicuramente esiste. L'ultima questione è questa, quella della democrazia. Dunque la Lega è una struttura assolutamente antidemocratica. Il problema che mi pongo io è questo: non mi pare che questo crei grossi problemi di rapporto con la gente che ha riferimento alla Lega. Cioè, mi chiedo anche qui, c'è una richiesta di cambiamento. Questa richiesta mi pare che si rapporti spesso anche da parte degli stessi lavoratori che si incazzano col sindacato perché non li fa votare, con un riferimento non a una società che è democratica, quindi non alla Lega, al suo interno fa quello che gli pare, io non... ma in qualche modo a chiedere che vada bene anche un riferimento a un rapporto di tipo carismatico e leaderistico. Vediamo se questo ci cambia qualcosa, se il boss ci cambia qualcosa, appunto. Cioè, mi sembra di capire che c'è la disponibilità anche a rinunciare alla democrazia, pur di che ci sia qualcuno che cambi qualcosa. In questo senso è sicuramente un'opzione di destra, ma lo è sul piano del consenso. È un consenso che piano piano si costruisce su un'ipotesi di destra, che non è immediatamente di destra. Però piano piano costruisce un consenso, un'ipotesi appunto di destra, perché è riferimento all'individualità. Vabbè, basta. Ci sono altri interventi, domande? Ci sono tanti interventi, vediamo la parola per la replica. Facciamo in giro se sono in prima. Ma le questioni sono tantissime, quindi ciascuno meriterebbe diciamo il primo problema che ha posto sulla importanza che non era tanto sviluppata sul tema della riforma fiscale, no? Ecco, più in generale anche il problema che poi altri citavano, il cosiddetto programma economico della Lega, no? Questo è il... Sì, sì, lui è stato al congresso loro della Lega, no, al primo... E in effetti gli applausi più forti che ci sono stati è stati quando uno ha attaccato la bolla fiscale, no? Cioè c'era questo clima da rivolta dei, insomma, dei, dei bottegai, ecco, questo era il clima dominante, no? Come nella, o quando si è proposto, ecco, oppure si è proposto anche soprattutto il massimale del 28%, cioè tutte le tasse non più del 28% in totale, no? Altrimenti. Ecco allora, e l'altro discorso, il programma economico della Lega, no? Ecco allora, certamente c'è una lieve sovrarrappresentazione del settore della piccola borghesia indipendente, questo anche in origine, cioè adesso si è un po' attenuato, comunque, quindi diciamo così, prendono un po' più voti in quei settori lì, però questa cosa io credo rientra all'interno del discorso Lega come una componente che si rilaccia invece a un modello più generale, perché non potrebbe spiegare perché votano per la Lega molti studenti, cioè molta gente operaia, eccetera, che non ha niente a che vedere. Sì, loro come ceto politico in effetti hanno abbastanza origine, se vogliamo, anche con mentalità, è quella proprio della mentalità del piccolo imprenditore, no? Quindi di quello che si è fatto da sé, no? La piccola, insomma, l'idea tipica, cioè la mentalità, se vogliamo, è più quella della piccola azienda artigianale, no? Che si sviluppa in qualche modo in questa logica. Quindi certamente trovano un feeling, una risonanza in questi settori, no? Questo è indubbio, però c'è il problema enorme da spiegare perché poi dilagano in tutti gli altri, no? E anche in settori che in teoria avrebbero interessi opposti in qualche modo. E allora in questo senso io direi che vista solo come problema, cioè come partito tacceriano o come partito di liberismo spinto, di tassazione, in effetti sarebbe, cioè questa cosa c'è all'interno, no? Però rientra ed è subordinata a un modello più generale che invece è quello che sfonda. Cioè in Italia, se vogliamo, il tacerismo non ha molto spazio. E se i leghisti mettessero al centro questo tipo di problema, cioè di togliere la previdenza, ecco, avrebbero dei crolli elettorali tremendi, cioè lo possono inserire all'interno di un altro discorso, cioè come dire, esiste questa problematica, no? Però è in qualche modo subalterna a un altro, cioè al discorso che loro mettono al centro e che, vabbè, è un discorso che prima dicevo di tipo di protesta regionalista, ma poi soprattutto della protesta, come dire, tipo populista anti, se vogliamo, antipartitocrazia, no? Cioè il discorso, ecco, qui il discorso è delicato, cioè, perché non è un caso, per esempio, avete letto che l'Economist raccomandava di votare sia per la Malfa sia per Bossi, no? Cioè esiste indubbiamente, ed è probabilmente una delle possibili evoluzioni della Lega, però attualmente mi pare non è ancora quella più forte e più importante, e che cioè in sostanza, siccome non riescono a fare appunto di la Malfa una specie di cioè avere l'operatore della Malfa non ha avuto un grande spazio in Italia, è stato un parziale fallimento, ecco, c'è un'idea di alcuni ambienti sia nella Lega sia fuori dalla Lega di fare della Lega, diciamo così, un qualche partito tacceriano d'Italia, cioè potrebbe essere Bossi il la Malfa dei poveri, no? Come la Malfa tende di essere il Bossi dei ricchi, no? Ecco, però il problema è che se fosse, cioè in questo senso, in senso proprio, il programma della Lega è abbastanza simile, se vogliamo, se non lo diceva già Maioli, ma sono d'accordo, cioè se vogliamo i documenti della Lega, nel senso proprio, il programma è di una totale privatizzazione, la eliminazione dello Stato sociale fondamentalmente, no? E quindi rispondo anche alla domanda sul terzo mondo, il problema di aiutare il terzo mondo non si può risolvere dal punto di vista della Lega, perché dove tiriamo fuori i soldi per il terzo mondo? Dovremmo aumentare le tasse, ora le tasse dovrebbero essere diminuite, dovrebbe essere stato, cioè come dire, anche come dire, il discorso di ciascuna casa propria, no? Ciascuno si la cavi come può, no, non è compensabile in nessun modo, perché diciamo così, l'idea è che comunque noi daremmo i soldi a quelli se ne stanno a casa loro, perché come facciamo a dargli questi soldi? Dovremmo o attingere certamente non lo darebbero i cittadini privati, questo non credo proprio, lo dovrebbe dare lo Stato ha un deficit pauroso, dovrebbe aumentare le tasse ma dovrebbero essere ridotte, cioè quindi come dire, è strutturalmente impossibile questa idea, cioè è una, ovviamente una pura buttata, perché il loro discorso è non abbiamo soldi meridionali, perché in realtà i meridionali poi i soldi li rubano i partiti, questo potrebbe essere anche vero come discorso, no. Certamente come dire, no, non è pensabile, e d'altra parte non lo fa neanche la Thatcher, non so come dire, tutti i paesi dove domina questa impostazione di tipo economico, no? Non è certo, non c'è una disponibilità di nessun genere, perché comporterebbe un grosso investimento per i poveri fuori casa, non c'è neanche l'idea di investire per i poveri in casa, cioè, quindi si vuole far fuori lo Stato sociale, quindi come dire, è strutturalmente impossibile questa cosa. Però io credo comunque che, da un lato, comunque questo basta vedere anche nella loro propaganda, nei loro manifesti, no? Questo programma economico strettamente tacceriano e anche la possibilità di un'evoluzione della Lega come partito tazzeriano d'Italia, cioè quindi, come dire, quello che nessun partito italiano è riuscito a fare, se non la Malfa, ma la Malfa non riesce a avere più di tanto, cioè di fare un partito che porta avanti, ecco, probabilmente è una possibilità, ci sono quelli sia nella Lega sia fuori che la vorrebbero, ci sono delle pressioni anche sulla Lega perché diventi questa cosa, ecco, però per ora non è così. E se lo facesse probabilmente avrebbe un grosso calo di consensi, perché un conto è fare la battaglia contro Roma, contro la tassazione, contro... altro discorso è presentare chiaramente il discorso del taglio dello Stato sociale. Ecco, questa cosa provocherebbe dei grossi problemi, no? Quindi questa, se vogliamo, è comunque una prospettiva possibile, però è una contraddizione, perché contraddice con l'altra impostazione che la Lega, anche se evidentemente quella di, se vogliamo, di partito popolare populista, se vogliamo, cioè il fatto che sostanzialmente il discorso di base è se noi ci sgraviamo del fardello delle rapine dei partiti di Roma eccetera eccetera, gestiamo le risorse e chiudiamo la società, noi riusciamo a far fronte al, non ci sono più poveri, cioè riusciamo a far fronte ai bisogni di tutti, quindi, e anche se destatalizziamo la gente è abbastanza ricca per pagarsi la scuola, ovviamente è un'utopia perché non succede da nessuna parte, né in America né in Inghilterra questa cosa, però l'idea, come dire, la mette in secondo, cioè non la porta avanti, come, cioè io non credo neanche nel breve periodo a questa cosa accederà direttamente. È possibile ovviamente che in Parlamento magari appoggi delle leggi di quel tipo, però se ciò fosse, cioè questa prospettiva, io la vedo come una contraddizione possibile che può creare dei problemi alla Lega, perché se fosse troppo scopertamente come dire legata a questa prospettiva, cioè se la mettesse al centro della sua propaganda, del suo messaggio, ecco, questa cosa probabilmente provocherebbe una serie di ripensamenti a livello popolare. Il discorso è diverso se invece resta una cosa implicita, che soltanto l'aspetto principale è impedire le ruberie dei partiti i latrocini che vengono portati al sud eccetera, cioè gestiamoci le nostre risorse con l'idea che comunque da ciò ne avremo un miglioramento, no? Ecco, questa cosa però come dire, ecco, io credo che in un senso proprio, come prospettiva, tenderanno, lo stanno già facendo in parte, a giocare un po' con una certa come dire, oscillazione fra queste due prospettive, ma più privilegiando l'idea di un insediamento forte nel nord, e cioè quindi di ottenere delle concessioni, cioè non credo andranno al governo e neanche si comprometteranno troppo rapidamente, appoggeranno alcune operazioni governative, alcune operazioni anche politiche importanti, però non credo che più di tanto si inseriranno, almeno per adesso, perché sarebbe chiaramente una grossa contraddizione se appoggiassero direttamente un governo con la partitocrazia, sarebbe proprio la negazione totale della loro impostazione che per adesso è vincente, no? Ecco, però punteranno, credo, a strappare delle concessioni per il nord di qualche natura, o di tipo simbolico, o forse in parte di tipo istituzionale, e in qualche misura forse di tipo anche economico. Cioè questo sì, cioè se loro, ecco, la prospettiva che vedo più probabile come loro evoluzione, anche se ovviamente con delle tradizioni varie, è di puntare a legittimarsi come rappresentante populista, popolare delle aree del nord, quindi cavalcando sia gli umori, quindi i rancori, le paure, le insicurezze a livello popolare, e però ecco, devono, come dire, anche per loro l'impostazione che punta molto poco sull'ideologico e molto sul concreto, ecco, devono ottenere alcune concessioni, ecco, altrimenti capita quello che diceva già Maioli, che per esempio a voi che sono il primo partito hanno delle incertezze perché non riescono a ottenere effetti concreti dei loro voti, non possono troppo facilmente inserirsi in un governo con altri, no, cioè è un problema reale questo per loro, ecco, no, questa cosa può essere un loro punto di ribalta se loro. Però io credo che loro, in qualche modo, siccome gli altri partiti sono molto in crisi, ci sono molte difficoltà, eccetera, forse riescono a spuntare alcune concessioni importanti, di qualche natura, secondo cui possono a questo punto finalmente puntare a insediarsi come il rappresentante del nord, e quindi in un certo senso a mediare parzialmente in senso interclassista, quindi non andare troppo scopertamente sulla via tazzeriana molto drasticamente che taglia lo Stato sociale e una serie di garanzie, perché questo provocherebbe dei grossi contraccolpi. In questo senso, ecco, hanno questa possibilità, ovviamente hanno dei problemi, poi anche un'altra possibilità di crisi può essere, questa è reale, che è troppo debole lo Stato politico, quindi può essere comprato individualmente, quindi quello può essere un altro fattore di debolezza. Ma lasciando parte questa cosa che comunque esiste, e io vedo questo gioco per queste due possibilità di insediarsi come partito che rappresenta il nord, ecco, un qualcosa del genere, adesso anche se molto diverso perché la logica è un po' diversa, del partito catalano che c'è, anche se ovviamente ha un'altra storia, poi lì c'è una differenza anche linguistica che dà maggior forza, o di certe prospettive separatiste che esistono in mezzo, cioè quindi insediarsi e farsi parzialmente riconoscere a livello popolare come rappresentante, cioè prevalentemente in questo senso. Ecco, sono in secondo piano invece con una prospettiva che è di destatalizzazione, ma con l'idea di incentivare certi ceti sociali. Ecco, un altro, in questo senso, io credo che l'altro problema che veniva posto dell'insediamento sociale a livello di operai, ecco, a quello che ci risulta, come dire, il movimento è abbastanza anomalo, cioè in questo senso che un'indagine recente che è stata fatta a Milano all'Alfa Romeo alla Breda sull'identità operaia, quindi un censimento abbastanza diffuso a livello operaio, rivela che c'è un consenso per i leghisti ma pochissimi aderenti ai loro sindacati, cioè diciamo così, e quei pochi che aderiscono in realtà è un'adesione di tipo dal politico al sindacale, cioè non è un'operazione, forse i tassisti sono una categoria molto particolare che sono per realtà dei piccoli padroncini, cioè la categoria più del ceto medio, come dire, tradizionale, cioè del piccolo padroncino, quindi che ha un'affinità anche ideologica abbastanza forte. Ecco, invece da quello che si riscontra però si è invece che l'insediamento è non è molto, come dire, nelle categorie precedenti operare, non sembra dilagare per via, come dire, delle tematiche o degli obiettivi specificamente operai, no? Quindi c'è una debolezza, c'è un insediamento di opinione importante, ma qui è interessante perché non è un'opinione in senso tradizionale, qui effettivamente in questo senso non è un partito d'opinione tradizionale, perché c'è un forte, cioè come dire, il diventare leghisti, e questo è un problema complesso da studiare ma che richiederebbe una riflessione attenta, è un processo diverso dall'adesione all'altro partito d'opinione, perché comporta quasi un mutamento, cioè in questo senso, come dire, si riscontra da molti segnali questo fatto che gente che non faceva politica, no, che diventa leghista, ecco, il diventare leghisti diventa un'identificazione forte, anche se magari inizialmente solo di un voto, quindi non comporta fare il militante, e in effetti è vero, non hanno una grande capacità di mobilitazione a livello di manifestazione, cioè nel senso tradizionale, no? Perché non parte da certe reti, come dire, forse più diffuse, e non parte poi da luoghi precisi di concentrazione, per esempio non ha una forte presenza specifica in una scuola, in una cioè non ha, ecco. Però è la cosa che va considerata, che quando c'è, come dire, una specie di rottura quasi nel senso comune, se vogliamo, di certi modi di vedere le cose, quindi si aderisce alla Lega, ecco, si diventa fortemente aderenti, quindi ci si sente molto coinvolti, e questo può essere la prova, la base su cui, a partire dal riorientamento politico, ecco, si può costruire poco per volta un tessuto anche che poi può avere anche un suo, come dire, un suo che se vogliamo è un procedimento che è più simile, anche se chiaramente non c'è, io credo, ho fatto un'etnia nordica per esempio, no? Comunque è un percorso più simile ai meccanismi che hanno certe, non in Italia perché non c'è una forza tradizione, ma in altri paesi, un percorso che prima di appartenenza etica e a partiti di tipo etico che difendono queste etnie, e al fatto che poi da questi partiti poi nascono anche sindacati o forme organizzative specifiche, no? Cioè quindi è un percorso in cui c'è una modifica prima, che è un riorientamento che è di forma di appartenenza, e cioè io sono, ecco, qui se vogliamo, il discorso sarebbe lungo come tutto questo è avvenuto, ma diciamo così, se vogliamo, nelle zone di insediamento storico bianche esisteva tutto un rapporto fra il territorio, la comunità territoriale, la religiosità e l'essere democristiano, cioè c'era questo, in quella rossa c'era un percorso diverso senza la mediazione della religiosità. Ecco, l'operazione che loro sono riusciti a fare, e per ora prevalentemente in queste aree di insediamento tradizionale bianco, è di mettere tra parentesi, se vogliamo, l'appartenenza religiosa in senso stretto, e però di riuscire a far trasferire in qualche modo certe forme di identità territoriale specifica in identità con il nuovo soggetto, cioè mettere tra parentesi, quindi non attaccare quella l'aspetto religioso, e fare riferire delle forme di radicamento territoriale, riferirlo specificamente al soggetto politico nuovo, se vogliamo, con questa forte connotazione populista, quindi come dire, con questo forte rancore polemica verso il soggetto politico, quindi con l'idea di portare alla luce, ecco, questa cosa provoca, non so, gente che non era spolitizzata, si convertono, diventa lui, magari anche lei, leghista, magari sono solo simpatizzanti, però questa cosa ne parlano con gli altri, cioè diventano dei piccoli, cioè come se fosse il meccanismo, come dire, di propagazione di un, ecco, quindi diciamo così, non è meno da quello che si riscontra ancora adesso, non c'è un insediamento forte, non c'è un dilagare del sale, e non è forte neppure, non è così forte neppure a livello di ceti in piccoli imprenditori, cioè a maggior presa evidentemente, perché è più affine come ideologia, come impostazione, eccetera. Ecco, però ecco, non è neanche, voglio dire, opinione tradizionale, quindi c'è un qualcosa che scatta, e la mia opinione è che sia questo tipo di capacità di evocare un riferimento forte che la sinistra o altre forze storiche hanno perduto, e quindi riesce a agganciare non solo il singolo, ma il singolo in rapporto alla comunità, e quindi un sentimento forte di essere, come dire, di rappresentare un qualcosa, ecco, di parlare a nome di qualcuno, di una comunità, quindi di avere un ruolo particolare. Non so. Questo mi sembra un po' come dire, sia le contraddizioni che ci sono in ballo, e sia anche forse l'elemento più forte che hanno messo. Chiaramente, se ecco, in questo senso, rispetto al discorso se destra e sinistra, io per carità non ho difficoltà a riconoscere che i consiglieri della Lega sono molto di destra e non certamente di sinistra, ma il problema, la cosa che dicevo io, è che non può essere combattuta in questo termine, cioè che la gente che vota Lega non gli frega niente se gli viene detto che la Lega è di destra piuttosto che di sinistra, perché la Lega è riuscita a dire, fra l'altro questo vale anche per Le Pen, che è molto più chiaramente di destra che non la Lega, cioè è molto più esplicitamente erede della destra estrema francese, no? Il fatto che venga detto che è di destra, che è estrema, che è fascista, non cambia niente, perché fra l'altro gli elettori di Le Pen, cioè, hanno una grossa componente che si dichiara di sinistra. Questo perché non sa, cioè, l'analisi superficiale, spesso quando vengono intervistati appaiono essere, o spesso è gente che, per esempio, nell'ultima elezione dell'88, gente che ha votato per Le Pen alle prime elezioni, un terzo ha votato a sinistra, ha votato per Mitterrand e non per quell'altro. Ecco, ciò vuol dire, cioè, un terzo dei votanti del Fondo Nazionale, che tutt'altro, cioè, che rispetto alla Lega, certamente come ideologia ne ha molta di più, no? Ecco, quindi il problema che dicevo, che non è che i loro, ecco, Le Pen, io credo, il Fondo Nazionale riesce a coprire in Francia tutto il territorio che in Italia è coperto dalla Lega e dalla MSI, ecco, il Fondo Nazionale lo copre tutto, se vogliamo, come territorio di protesta nazionalista di destra e populista. Ecco, qui in Italia abbiamo la Lega da una parte e la MSI che coprono territori in parte intrecciati, in parte contigui, se vogliamo, visto nell'ottica politica tradizionale del posizionamento destra e sinistra. Però il discorso che dicevo io è che non è affrontato col discorso del destra e sinistra, non è un terreno adeguato. Il problema, secondo me, è da porsi a sinistra, è perché mai la sinistra non è riuscita a, per esempio, problema che può sembrare banale, cioè che è vero che non è un problema di decentramento, non sono d'accordo, ma perché mai non è riuscita la sinistra a interpretare in altro modo il sentimento di non rappresentanza delle comunità territoriali locali? Questo è un problema, è vero da porsi, non è un problema di chiedere un decentramento diverso, perché se gli è chiesto un decentramento sul modello delle riforme regionali di tanti anni fa, non è quello il problema. Però il problema è che è vero che non c'è questa non rappresentanza. L'altro problema più grosso è come mai c'è un forte senso di protesta verso la partitocrazia e verso le forme, adesso diventa anche di tipo morale, insomma, come rifiuto, ecco, come mai con le categorie di sinistra non si riesce, c'è una grossa difficoltà a interpretare. Veniva detto, secondo me, mi pare che c'era qualcuno incerto se votare Rifondazione o votare Lega, no? Ecco, certamente Rifondazione, fare partito di sinistra, è quello che di più può interpretare questa spinta di critica molto radicale e di protesta, certamente. Però lì c'è un problema complesso, appunto, qui, che probabilmente, e dall'altro lato anche le MSI in parte recupera questa protesta molto, specialmente nel sud, no? Ecco, però il problema che mi chiedo è se hanno molta meno presa sia Rifondazione sia le MSI, almeno nel nord, ecco, proprio perché pagano lo scotto di comunque essere visti, anche se su posizioni più radicali, più estreme, più protestatarie, tutte interne a un linguaggio, a un modo di definire i problemi e definire i conflitti, che dalla gente vengono visti comunque tutti uguali, no? Cioè, comunque che appartengono, quindi in sostanza come non capaci di esprimere i loro bisogni, i loro conflitti. Cioè, questo è il problema che pongo. Comunque, direi, allora, il problema che andrebbe visto, secondo me, è come una sinistra rinnovata può competere con la Lega, non tanto in quanto la chiama di destra, certamente l'ha combattuta, e i loro contenuti di destra o antidemocratici l'hanno combattuta in quanto tali, questo mi sembra come contenuti, no? Ma io non credo che possa essere combattuta come un discorso è di destra, di sinistra, perché proprio una debolezza della sinistra è che viene vista o comunque le sue categorie non vengono viste in grado di capire e di esprimere queste forme di protesta che pure ci sono, che fra l'altro io definivo di tipo territoriale, di tipo populista, di forte delegittimazione, e altro problema molto complesso, le paure che ha la gente, che la sinistra chiaramente non può gestire come le gestisce la Lega, come paure che portano a chiudersi, quindi dovrebbe gestire in un altro modo, no? Però anche lì l'altro modo è tutto da scoprire e inventare, come gestire il rapporto con lo straniero, perché anche appunto anch'io ho sentito dire a Brescia dal PDS che in campagna elettorale, quando ci fu l'elezione amministrativa, che non parlavano del tema dei migrati perché teneva di perdere voti, quindi certamente va rimossa la parte come dire di paura di parlare, però anche lì sono paure reali che ci sono fra le persone e comunque il diverso crea dei problemi. Allora anche lì c'è tutto un problema di discussione di quale battaglie fare e come farlo. Comunque ecco, io direi il problema dei rapporti con la Lega è più da vedere come questi punti su cui la Lega fa Lega, come possono essere ripensati e come la sinistra può gestire sia queste proteste o fa fronte alle paure con un'altra prospettiva culturale che non sia una semplice sventolio di bandiere tradizionali. Questo. Io rapidamente, perché mi sono poi accorto che mi ha portato via un sacco di tempo. Ma funzionano o no il SAL e le organizzazioni sociali della Lega? Io sono del parere che intanto che funzionano comunque, facendo anche qui una puntualizzazione a me stesso oltre che a voi. La Lega ha questa abitudine di censire, no? Le proprie capacità di adesione, di influenza e così via solo nei momenti congressuali. Infatti, almeno non so se Biorcio mi dà ragione, una serie di dati rispetto a iscritti, reclutati, età. Ma sono inventati. No, c'è una parte inventata, ma comunque al di là di questo, i dati comunque te li danno sempre. Beh guarda, io ad esempio sul fatto che Bossi abbia i 140.000 iscritti non ci credo. Appunto, l'invento. Ecco, che non li abbia nel nord Italia, che abbia i 30-35.000 iscritti in Lombardia ci credo, perché se me lo consenti io ho girato ampiamente la Lombardia e ti posso, se vuoi domani o dopodomani ci troviamo, ti posso dare resoconto di dove in ogni luogo io sono andato e ho trovato la sede aperta, il gruppo di militanti della Lega, eccetera, eccetera. Quindi in Lombardia lui ce l'ha, che poi gonfi le cose sul piano delle altre regioni è un'altra questione. Comunque in Lombardia sia il SAL che l'ALLIA che l'ACLIS, che sono le tre organizzazioni maggiori, esistono e funzionano. Ecco, c'è un dato. Il SAL, ad esempio, lo si misura spesse volte con gli iscritti. Io rovescio l'interpretazione. A me, che il SAL abbia una sua funzione, non lo deduco tanto dagli iscritti. Lo deduco, ad esempio, dal senso comune che sta entrando nelle fabbriche e di cui il SAL è il veicolo. Non so, tu citavi le indagini recenti della Breda e così via. Abbiamo visto l'indagine della CGL Lombardia. No? Abbiamo visto quale consenso porta a casa, no, il SAL, ma non tanto come adesione alla tessera, all'iscrizione all'organizzazione, quanto adesione agli gli obiettivi che il SAL si porta. Teniamo conto che ad esempio il SAL non è che abbia oggettivamente le condizioni per diventare chissà che, perché ad esempio i leghisti negano lo sciopero, negano il conflitto sociale, no? I leghisti sono per questo interclassismo che viene poi, io ricordavo qui, gli oneri sociali e così via, ma non si sa bene com'è che dovrebbe vivere neanche nella piccola e media impresa. Non so se rendo l'idea. No, quindi il SAL, secondo me, più che essere misurato la capacità del SAL, più che essere misurato sulla capacità di divertenze che non ne farà mai, di scioperi che non ne farà mai, e quindi degli iscritti e degli iscritti, secondo me va misurato invece su un altro terreno, su quella che è la capacità di influenza di un senso comune che purtroppo è entrato anche nelle grandi fabbriche laddove sono insediate storicamente le tre organizzazioni sindacali. L'ALLIA l'Alia, beh, in Lombardia conta migliaia di adesioni, di aderenti, da piccoli e medi industriali a commercianti, artigiani, liberi professionisti soprattutto e così via. Questi si sono messi in corporazione, questi contribuiscono addirittura per categorie a definire i programmi della Lega. Tu hai letto i programmi della Lega Nord, avrai visto che fra le centinaia di schede, no, la stragrande maggioranza era proprio di questi che inventavano gli ambiti più strani, no, per poter, e quindi questa è la dimostrazione che questi vivono. Questo ACLIS, che è una sorta di arci di sinistra, mi è capitato di trovarmelo in giro, dove c'è la gente che gioca a bocce, fa attività luddiste e così via, si organizza e prende la tessera ACLIS, non a caso in Lombardia, e sono, si calcola attorno ai 30.000 iscritti. Insomma, sono tanti, sono pochi, cresceranno, non cresceranno. A me fa già paura che questi nel breve giro di poco tempo siano riusciti a mettere insieme queste organizzazioni. E come sinistra mi preoccupo dal momento in cui io i giovani non li organizzo più. Io sono andato, guarda, per dirti, si parlava di Legnano, mi pare, prima, no? No, non qui, prima. No, io sono andato a Legnano all'assemblea in contemporanea, dove c'ero io, si parlava della Lega a sinistra, c'erano 50 persone. Un chilometro più in là c'era Bossi, c'erano 1.500 persone, la stragrande, no, lascia perdere, la stragrande maggioranza giovani. Beh, questo però ti dà l'idea, sono esempi che io, come dire, ti potrei raccontare all'infinito, ti dà l'idea, oramai, no, non perché c'ero io in Moioli, che nessuno conosce, ci fosse stato Occhetto, ci fosse stato Garavini, delle mille e qualcosa, non lo so, a Legnano se li sarebbe portati dentro il teatro. Cioè, qui c'è un dato, insomma, su cui bisogna riflettere. Secondo aspetto, quali sono le contraddizioni interne? Beh, io credo che intanto una contraddizione che la sinistra dovrebbe far saltare, le forze del progresso dovrebbero far saltare, invece non hanno fatto, è quella relativa agli interessi materiali che la Lega porta avanti, che la Lega interpreta. Questo è il punto. Non lo so, per intenderci, noi oggi siamo di fronte a una crisi economica, ha problemi di occupazione, 200.000 posti di lavoro, ha detto Trentin recentemente, no, sono in discussione in Italia, hai 30 milioni e più che crescono ogni giorno, che abbiamo sul capo anche quello che è nato ieri, ognuno per il deficit statale e così via. Noi dobbiamo avere il coraggio, la capacità di chiedere alla Lega chi paga, chi è che deve pagare tutto questo? Questa domanda alla Lega, cioè non solo in termini, no, non l'ha fatta, non ha costretto nessuno la Lega a uscire dal suo populismo. La seconda contraddizione che c'è e che esploderà sempre di più è questa: il populismo di Bossi e il conservatorismo lucido ma cinico di Miglio. Adesso in Parlamento loro dovranno mediare queste cose, perché Miglio tirerà da una parte, non solo sul piano delle alleanze politiche, lui preferisce i Martinazzoli, preferisce gli Andreotti, avere i Craxi anche, avere quindi, adesso oramai i Craxi è un po' fuori gioco, no, ma dico, ma preferisce avere questi? Bossi no, Bossi è molto restio, no? Non solo sul piano delle alleanze politiche, soprattutto lo sarà sulle scelte, su quali scelte dovranno essere fatte, in economia in particolare. Io credo che avremmo dovuto su questo, io credo, lavorare noi già da tempo, prima di aspettare che arrivasse al 23% in Lombardia e al 17% e quasi 18% al nord, insomma, questo è il punto. È vero, l'assenza di democrazia non preoccupa la gente. Io però sono preoccupato del fatto che la gente non è preoccupata. Perché guardate, che Bossi usi quei metodi da padre padrone per far fuori i dissidenti, eccetera, eccetera, mi può far dispiacere, no? E comunque siamo in un regime di libertà, ognuno fa i cavoli che vuole, uno si può suicidare fisicamente, può anche suicidarsi politicamente, però mi fa paura che ci siano 30 e più mila persone in Lombardia che si iscrivono alla Lega Lombarda, diventano militanti o sostenitori della Lega Lombarda, trascurando o sottovalutando questo fatto, che ci sia ormai 1,5 milioni di lombardi che vota per la Lega Lombarda, per la Lega Nord, e trascuri questo fatto. Questo cosa significa? Che è nella società che c'è un processo di oscuramento della democrazia, del valore della democrazia. E qui allora la sinistra che se ne deve accorgere. Cioè io ragiono sempre e nel momento in cui guardo la Lega, non tanto per demonizzare la Lega, che anzi credo sia un errore, perché mi torna come una spia di una situazione che ha bisogno di, qui sì, di riforme, di interventi urgenti. E se non le fa la sinistra, è chiaro che si mette in campo qualcun altro, arrivano i leghisti, assumono loro, capisci, la spada del cambiamento, e hanno evidentemente le loro fortune. E il cesarismo è comprensibile, qui bisognerebbe andare a rivedere la sociologia. Il punto è uno, che secondo me il dramma è che il cesarismo oggi rischia di diventare una possibilità di cambiamento che è mancato in termini democratici. Insomma, lo stesso ruolo che Craxi in qualche modo ha avuto in questi anni, no, per una determinata area sociale, no? E oggi la stessa cosa si ripete su un'area sociale molto più. Ultima cosa, ma cosa c'è dietro a sto fatto destra, sinistra, tutte queste cose? Io te lo dicevo prima, a me non preoccupa tanto, destra e sinistra sono anche, come dire, sostantivi che possiamo superare. Il problema è capirci se questo significa, perché qui sono i filosofi, se me lo consenti, non solo liberal democratici, ma anche quelli che in qualche modo flirtavano a sinistra, che hanno incominciato a mettere in discussione questi termini, ma spazzando via quel che ci stava sotto. Cioè liquidare destra e sinistra significa per questi liquidare non una dizione, liquidare i conflitti, quindi liquidare una sostanza secondo me della realtà, ma mi pare che anche tu stesso qui ricordavi, no, che non è questo il come la gente non vede, ecco, non interessa come, il filosofo, il punto, sono d'accordo con te, non è che a me non interessa tanto il problema della destra e sinistra per andarla a giocare a livello di massa, ok, a dire che quindi qui si ritornerebbe a demonizzare, che come dire siete fascisti, siete eccetera eccetera, no, questo problema della destra e sinistra semmai è una questione molto interna, se me lo consenti, ai partiti. Perché? Perché io ho incominciato a preoccuparmi su questo e prendere la rabbia quando ho sentito qualche mio ex compagno, fortunatamente, no, qualcuno c'è ancora purtroppo, qualche mio compagno di partito che ha detto: beh, siccome il cambiamento non siamo riusciti a farlo noi, adesso arrivano le leghe, chissà che sia la volta buona che noi, alleandoci con le leghe, mandiamo l'opposizione alla Democrazia Cristiana. È questa la cosa che, se me lo consentite, mi ha imbestialito e mi imbestialisce. Beh, questi poi sono, tra l'altro, quelli che ti dicono oggi destra e sinistra non ha più senso, e qui giusto. Ma è chiaro che io la battaglia che oggi devo fare soprattutto non è in questi termini, io la devo fare sui contenuti. E allora con Bossi mi misuro, con la Lega mi misuro sulla questione della riforma del fisco, della riforma delle pensioni, delle ristrutturazioni, eccetera, eccetera. È qui dove mi interessa del deficit, eccetera, è qui dove mi interessa semmai di misurarmi, in primo luogo. In secondo luogo, a livello di massa, io credo che se faccio questo però significa che o io ho una sinistra diversa da quella che ho oggi, oppure attrezzata come oggi questa sinistra non mi pare che sia né in grado né abbia la capacità di poter sconfiggere un disegno di questo genere. Questa è la mia profonda convinzione, come qui si tratta. Cioè prendere l'occasione del leghismo e di questa riflessione sul leghismo per ragionare su noi stessi, sulle nostre proposte, sulle nostre prospettive. Bossi mi torna solo come, se mi è consentito, dare un'immagine. Poi io quando guardo le leghe è come se guardassi allo specchio e vedo riflessi i miei difetti, i miei limiti, le mie responsabilità. Questo è Bossi, queste sono le leghe, se non le vogliamo demonizzare. Sì.